e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, benvenuti da Deborah Rosciani. Sono le 10.33 circa. Qualcuno di voi sicuramente avrà già fatto la spesa o la farà questa sera, magari prima di tornare a casa dopo il lavoro. Bene, allora non potete certamente perdervi i consigli che vi daremo tra poco con il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e di immunologia clinica a Milano. Perché? Perché oggi noi col dottor Speciani andremo a sbirciare nella vostra borsa della spesa, perché come dice spesso Nicoletta, che torna domani qui con me, siamo quello che mangiamo e di conseguenza siamo anche quello che portiamo a tavola. E quello che portiamo a tavola ci aiuta a stare bene, soprattutto in questo periodo. Se mangiamo bene, naturalmente possiamo ben difenderci dall'influenza, anche se lentamente la curva del contagio comincia a salire e secondo la rete di sorveglianza Influnet dell'Istituto Superiore di Sanità i casi in Italia sono già più di 1 milione. Contro i virus invernali, allora, che cosa fate? Fate scorta di vitamina C con mandarini, arance, ananas e kiwi? Cominciate a raccontarcelo, perché questo sarà il tema della nostra prima parte di stamattina. 800 24 00 24, numero verde a vostra disposizione per raccontarci come se fate il pieno di vitamina C. Dopo il GR delle 11 torna invece oggi, visto che è giovedì, la nostra rubrica Investire Informati, quanto mai opportuna in questo periodo così difficile per i mercati finanziari internazionali. Torneremo a sederci sui banchi di scuola, della nostra scuola di risparmio. Se avete già qualche domanda, alzate la mano, fatevi avanti, anzi cominciate a sollevare la cornetta, e con il nostro esperto oggi cercheremo di accompagnarvi nella lettura delle ultime notizie di stampo economico-finanziario. Cercheremo di capirle insieme, trasformarle per quanto possibile in questo momento di incertezza per tutti in consigli e in considerazioni utili per tutti i nostri risparmiatori, che a volte, lo sappiamo, sono un po' disorientati quando aprono il giornale, accendono la radio, sentono parlare del prezzo del petrolio, della crisi cinese, dei tassi di interesse, della turbolenza sulle banche. Peraltro, per essere proprio aggiornatissimi, oggi l'Europa era partita bene, dopo i fortissimi nuovi ribassi di ieri. Milano guadagnava in avvio 2 punti, li ha già bruciati tutti, adesso si sta muovendo sulla parità, tiene a fatica questo rimbalzo, grazie ad alcune banche che guadagnano un po', ma a quanto pare appunto questo recupero è molto faticoso. Ma ne parleremo dopo le 11, intanto andiamo a fare scorta di vitamina C. Questa è la sua stagione d'oro. Parliamo della vitamina C, che è contenuta negli agrumi e in tanti frutti, il kiwi, ma anche in verdure come i peperoni o il cavolfiore. A dispetto delle polemiche che cercano di sminuirne il ruolo, oggi è considerata probabilmente uno dei rimedi più importanti che la natura ci mette a sua disposizione. Allora ne approfittiamo per parlarne con il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia, immunologia clinica a Milano, che salutiamo subito, e naturalmente da lui vogliamo l'invito ai nostri ascoltatori alla conversazione di questa mattina sulla vitamina C, sull'importanza di questo integratore. Peraltro, dottor Speciani, come e in quanti modi possiamo definirla? Ah, la possiamo definire in tantissimi modi, ma subito direi intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Stamattina quando mi sono svegliato ho preso un succo d'arancia, ma ci ho messo dentro anche lo zenzero, che è un altro ottimo portatore di vitamina C. E il pensiero primo, mentre ragionavo sul fatto che probabilmente avremmo parlato di influenza, e la gente a volte quando parli poi di malattie si intristisce. Invece diciamo immediatamente una cosa bella, che oltre che aiutare nella difesa delle malattie infettive, dà un sostegno alla pelle, fa venire la pelle bella, perché la vitamina C è fondamentale per la struttura del collagene, quindi tutti quelli che vanno a cercarsi le loro azioni positive per avere la pelle in tono, si ricordino che oggi parliamo di influenza, malattie eccetera, ma anche di una sostanza che in realtà serve per tutto l'organismo, non solo come difensore, diciamo, e stimolatore del sistema immunitario. E allora, dottor Speciani, lei con lo zenzero questa mattina, che se i nostri ascoltatori come la combinano, che tipo di combinazione adottano la mattina per assumere vitamina C nella misura corretta e nella maniera corretta? Raccontatecelo all'800 24 00 24. Io faccio un po' di fatica, perché ad abbinarla con il caffè, dottor Speciani, ho sempre la sensazione che mi faccia venire un po' di acidità di stomaco. È possibile? Ma concordo, anche perché parliamo di una sostanza, gli agrumi fondamentalmente, piuttosto che la vitamina C, che di per sé è un acido ascorbico e quindi come tale ha una lieve azione irritante. Devo dire, noi siamo abituati, aggiungiamo l'acetone in insalata piuttosto che lo spruzzo di limone da qualche parte, però in effetti è vero che l'azione un pochettino irritante sullo stomaco della caffeina, più un'azione irritante lì, a volte dà fastidio. Ci sono dei trucchi simpaticissimi. Io prendo poi mangio qualcosa, perché è una prima colazione, quindi prima il caffè, prima della spremuta eventualmente. Ma io sono nasco italiano e quindi per me quando inizio a farmi la prima colazione parto come la tazzulilla di caffè, come si diceva, buonissima, che apre, come dire, la mattina, e poi contemporaneamente intanto mi sistemo le mie cose per fare una colazione adeguata e fantastica, di cui comunque la vitamina C, che sia perché è una spremuta, che sia perché ci siano dei centrifugati di frutta, perché ci sia frutta in quanto tale, o addirittura, questo lo so che adesso faccio entrare in fibrillazione qualcuno, però visto che abbiamo broccoli, broccoletti, cavoli, lo sappiamo perché abbiamo sempre discusso della prima colazione come un momento portante dello stimolo sul sistema immunitario, quando mangiamo anche cavoli, broccoletti e cavolfiore al mattino, per me è una sorta di contorno alle proteine che mangio, in realtà stiamo facendo non un pieno, un super pieno di vitamina C, che entra nel modo più corretto ed adeguato. Quindi non c'è solo la spremuta, ecco, certo, questo voglio dire. E invece noi tradizionalmente la associamo solo a quella, dottor Speciani. Stamattina, come dire, abbiamo anche la possibilità di fare un po' di educazione in questo senso. Dai, dai, ottimo. Ottimo. Allora, partiamo dalla carta d'identità della vitamina C. Lei il suo nome ce l'ha già anticipato poco fa, acido ascorbico. Non è che si presenti molto bene, però questo è quello che passa il convento, come si dice. Beh, che cos'altro carina, possiamo però dire? Sì, ma intanto una cosa che mi piacerebbe dire è che ha una storia che è anche legata alla pirateria, quindi alla storia della marina, a malattie antiche come lo scorbuto, i marinai. Questo lo racconto come battuta, ma perché è importante nella condizione anche di oggi. Per anni i marinai sono andati in giro e quando superavano i 15-20 giorni di viaggio, non mangiando più sostanze crude, vive, colorate, non mangiando più prodotti con vitamina C, si ammalavano di questa cosa che è una carenza di vitamina C fondamentalmente, ma non lo si sapeva fino al 1780, fino al 1800 quasi. E in realtà quindi iniziavano ad avere fenomeni tipo i denti che sanguinavano, cadevano per terra stando male. Sì, allora era l'immagine era la pestilenza, no? Sono stati colpiti dal virus, perché ne moriva uno, poi il giorno dopo ne moriva un altro e così via. Finché si è scoperto, mettendo in un viaggio, e qui c'entra la marina e la pirateria, quindi Francis Drake, siete nella storia di tutti, è ricordato, un medico che era appunto un medico pirata, come dire, quindi viaggiava in questa doppia funzione, in realtà fecero degli esperimenti portando effettivamente alcuni frutti, dei limoni, delle arance sulle navi, e scoprendo che il limone, le epidemie poi scomparivano. È una reazione obbligata per il marinaio. A quel punto non era più una malattia infettiva come si credeva, era semplicemente un elemento di carenza. Ultima cosa che vale la pena di segnalare è che sulla vitamina C, sulla sua sintesi, ci sono stati almeno due premi Nobel, St. George nel 1937 e poi Linus Pauling, che vinse il Nobel per la chimica nel 1954, e di Linus Pauling, diciamolo perché è stato uno dei maggiori sostenitori dell'uso della vitamina C, che ne ha vinto un altro per la pace, quindi non era una persona così qualsiasi, diciamo che uno che credo che sia uno dei pochi, che anzi l'unico che ha vinto due premi Nobel e che sosteneva la vitamina C a spada tratta. Che storie magnifiche, dottor Speciani, grazie per averle condivise con noi. Adesso la mattina, quando ci metteremo lì a fare la colazione, assumeremo naturalmente molto più volentieri, molto più dotti anche questo alimento così importante. Allora, se si assume mangiando frutta e verdura, sono però necessarie alcune accortezze. Consumare subito, per esempio, spremute e centrifugati, quindi non possiamo spremere in mattinata 15 arance con l'obiettivo magari poi di mettere tutto in frigo e consumare nel giro di 3 giorni. Dottor Speciani, meglio invece spremerne un po' meno e consumare tutto e subito. Con un minimo di attenzione da questo punto di vista, che se noi guardiamo le etichette degli alimenti spesso troviamo che viene utilizzato acido ascorbico come conservante, quindi in realtà il tema cardinale è quello di una sua capacità di conservazione, bisogna non lasciarlo all'aperto, nel senso che l'ossidazione porta sicuramente via molta vitamina C. Se invece lo teniamo ben chiuso, insomma qualche ora, senza dover proprio immediatamente, possiamo provarla per i nostri figlioli. Ecco. Infatti, no, poi tra l'altro la questione dell'ossidazione è interessante, perché magari nella spremuta forse non si vede tantissimo come si vede chiaramente in altri alimenti che diventano un po' nerini, no, dottor Speciani? Però se noi pensiamo a questo aspetto, se noi tagliamo una mela, la lasciamo lì, diventa scura. Immediatamente. Se ci si mette sopra però un po' di limone? Esatto, questa non diventa scura, e che non vuol dire che non si ossida del tutto, si ossida un po' meno, e quindi effettivamente l'acido ascorbico controlla i fenomeni di ossidazione. Questa cosa è importantissima anche per capire perché ha questa potente azione globale, che non è solo ti difendo dall'influenza o ti difendo dall'attacco dei virus, ma ho un'azione di disintossicante. Perché? Perché noi, ad esempio, e qui torno al tema pelle, torno al tema vecchiezza, al tema invecchiamento, in realtà abbiamo una ossidazione, cioè il nostro organismo è come se si arrugginisse, diciamo questo. E utilizzando la giusta quantità di vitamina C consentiamo all'organismo di arrugginirsi meno, di controllare questa ruggine che si forma. A questo punto significa che riusciamo ad avere in un certo senso un'azione quasi disintossicante, non è solo antiossidante, perché teniamo vivi molti enzimi che in realtà ci tolgono di torno tutte le sostanze malefiche che abbiamo nell'organismo. Certo. Per cui c'è un'azione complessa, devo dire positiva, che è espressa in maniera potente proprio anche dall'integrità del frutto. Ad esempio, quando io ho detto che stamattina mi sono bevuto una spremuta, una centrifugata in realtà a bassa temperatura di arancia e zenzero, poi le fibrette che vengono fuori dal mio spremitore, in realtà poi me le utilizzo, me le mangio, ci faccio delle polpette piuttosto che ci faccio del sugo da utilizzare in altre occasioni, cioè cerco di usare globalmente il frutto, però è buono, devo dire, a me piace il succo fresco, ha un gusto, scende giù bene, un gusto a cui non rinuncio, però bilancio, perché bisogna sempre mangiare anche la fibra. Chiarissimo. Intanto le dico che l'abbinamento arancia-zenzero o limone-zenzero è molto gettonato da parte di molti ascoltatori. Intanto le faccio anche sentire Adriano da Padova, poi è pronto Giuseppe da Crema, i nostri primi ascoltatori che si sono messi quest'oggi in collegamento con noi per raccontarci un po' come consumano, con che modalità, la vitamina C. Adriano, benvenuto, poi andiamo al traffico, prima della risposta del dottor Speciani. Adriano, eccoci a lei. Sì, buongiorno. Senta, volevo chiedere una cosa. Io faccio uso, scusi, di due limoni, cioè spremo due limoni ogni mattino con gli spremi agrumi, e poi aggiungo un bicchiere d'acqua e prendo associato a un cucchiaio di miele. Mi dicevano, ho sentito dire che per l'uso, diciamo, eccessivo di spremuta di limone può causare anche i calcoli e i reni. È vero questa cosa oppure solo... Allora, Adriano, io la ringrazio, a meno che lei non se ne beva 15 litri tutte le mattine, adesso non so quanto possa essere dannoso e quale tipo di quantità ne assuma, ma comunque se ha questa preoccupazione, sempre il solito sentito dire, questo sentito dire lo commentiamo tra poco col dottor Speciani dopo il traffico. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Cuore e denari. Cercasi vitamina C per mettere KO l'influenza, ne stiamo parlando oggi con il nostro esperto, il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano. Abbiamo fatto la carta d'identità alla vitamina C, appunto, e dopo il suo nome passeremo adesso alla residenza per capire dove la troviamo, ma in realtà molti temi li abbiamo già affrontati. Allora, c'era questo ascoltatore di Padova, dottor Speciani, che era preoccupato dell'eccessiva assunzione di vitamina C attraverso appunto il limone. Qual è il limite? Allora, verissimo, il limite è individuale, però è verissimo quello che sta segnalando il Adriano da Padova, nel senso che una potente, cioè parlo di una forte quantità, una grande quantità di vitamina C che individualmente può essere caratterizzata come a volte viene fatto per alcune terapie, perché lui si sta riferendo ad alcune terapie che girano per l'aria, per l'etere, come dire, cioè i 15 limoni spremuti al mattino, da mantenere per un tempo prolungato e così via, e queste a volte possono effettivamente smuovere, cioè creare un'eliminazione di calcio in più a livello renale, quindi facilitare la formazione di calcoli. Il dosaggio descritto da Adriano, cioè due limoni al mattino, mi complimento, continui tranquillo e vada avanti, ecco, sereno per tutta la vita. Non è quell'eccessiva quantità, no, che teme, ecco. Gaetano, che è una delle cose che gira, cioè proprio se cerca un po' su internet, trova la cura dei limoni, partiamo con 15 limoni tutti i giorni, perché sono abbastanza acidificanti, cioè mamma una situazione mia potente, insomma. Per cui invece se restiamo nell'ottica di un equilibrio e di una non sovraccarico dell'organismo, come sempre direi, siamo in un'ottica positiva. Adriano non deve aver timore della sua quantità. E invece Gaetano con 6-7 arance al giorno, dottor Speciani, qua cominciamo ad alzare l'asticella. Ma dell'acidificazione sta benissimo, e c'è un dato profondamente da considerare. Intanto, se noi mangiamo della vitamina C da sola, situazione che può essere a volte cercata in alcune patologie degenerative, anche dal punto di vista terapeutico, proprio cercando di stimolare una quantità anche per via endovena, eccetera. Parliamo invece di quello che mangiamo in un'ottica normale, le arance sono assolutamente tranquille, anche perché quando noi mangiamo un frutto insieme, il frutto, l'arancia, ha una ottima valenza e contenuto di vitamina C, ma è bilanciata con un mucchio di altre sostanze vegetali che fanno questa interezza del frutto, l'interezza della pianta che viene mangiata, che in realtà vanno a riequilibrare e compensare. In più, noi normalmente abbiamo un sistema escretore. Questo vale anche per le somministrazioni di vitamina C. Quando mangiamo un cucchiaio di vitamina C in polvere, per dire, in realtà nel giro di 4 ore l'abbiamo già eliminata per via urinaria tendenzialmente, cioè tende a non rimanere, tant'è che esistono tra gli integratori, esistono delle formulazioni cosiddette a rilascio graduato, prolungato, proprio per consentire di avere un minimo di contenuto di vitamina C tutto il giorno. Allora, intanto sta arrivando una batteria di messaggi al 349-238-6666, anche tramite WhatsApp, veramente in molti ci stanno raccontando qual è la loro abitudine preferita di consumo di vitamina C. Molte telefonate anche all'800-24-0024, che adesso sentiremo in rapida successione, ma dottor Speciani, appunto, il nostro focus prevalente fino a questo momento è stato sulla colazione, sull'assunzione della spremuta la mattina, o attraverso arance, o attraverso limoni e quant'altro, ma se dovesse darci un'indicazione un po' più precisa, esiste un momento migliore della giornata per assumerla o no? Perché tendenzialmente va bene in tutti i momenti. Noi sappiamo che anche nelle trasmissioni fatte insieme l'elemento del crudo vivo e colorato, cioè di mangiare qualcosa che contenga sostanze vive e vegetali positive, è uno dei mantra, direi quasi, che guida un po' le nostre indicazioni di utilizzo. Per cui se noi integriamo, ma provo a dare un po' di questa residenza, no? Come si diceva prima, sì, esatto, nel senso che il kiwi, 100 grammi di kiwi contengono circa 100 mg di vitamina C, che è quello che viene considerato il necessario. In realtà secondo me ne serve un po' di più nella pratica clinica, però l'OMS dice che ne servono circa 70-100 mg tra donne e uomini da usare ogni giorno. Le arance, 100 grammi di arancia contengono 50 mg. 100 grammi di peperoncino piccante, perché mettiamoci anche il piccante, ne contengono 250 mg, un mucchio, no? Mamma. No, ma a colazione magari non è proprio indicato, no, forse, però cioè, dei gusti, indicato, non, ma chi lo sa. Però vedi che alla fine dice magari alla sera il peperoncino è la ciliegina di vitamina C sul piatto di carne, di pesce, di quello che possa essere che uno si mangia. Lattuga, spinaci, cavolo hanno una connotazione media simile a quella delle arance, fondamentalmente siamo sui 50-60 mg. Anche i pomodori freschi, ecco, perché se io li cuocio tendenzialmente tendo un po' a perderla, no? si disperde nell'acqua, è una vitamina idrosolubile e quindi si perde un po'. Giuseppe da Crema, benvenuto. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie Giuseppe. Buongiorno dottore. Io volevo buongiorno dire che io da qualche mese a questo tempo faccio alla mattina un limone spremuto con un bicchiere d'acqua tiepida, prima di far colazione ovviamente, e mezzo bicchiere di carbonato. Ascolto per radio. Grazie, ma come mai ha pensato di inserire anche il bicarbonato in questa combinazione del mattino? Giuseppe è andato, niente, dottor Speciani, ce lo dobbiamo così immaginare noi. Sì, io tendenzialmente dico che non serve, poi soprattutto dal punto di vista digestivo noi abbiamo bisogno di acidità nell'intestino, nello stomaco per digerire quello che mangiamo. Quindi l'utilizzo improprio di sostanze fortemente alcalinizzanti come il bicarbonato può essere occasionale, incidentale, ma l'utilizzo ripetuto rischia di impedire poi di digerire completamente e bene le cose che stiamo mangiando. Quindi ottimo per il limone, meno bene per il bicarbonato. Benissimo. Allora sentirei Marina da Mantova perché ci dà l'opportunità di introdurre ben due argomenti. Uno, agrumi e patologie di un determinato tipo. Adesso sentiremo quella di Marina, ma c'è chi solleva la questione del reflusso e qualche volta l'assunzione appunto della spermuta infastidisce un po' chi soffre di questa patologia. Secondo tema che Marina, che adesso sentiremo, ci dà l'opportunità di introdurre per gli ultimi minuti di trasmissione su questo argomento, quello degli integratori. Marina, benvenuta. Guardi, sì, che buongiorno. Bella sintesi che ho fatto della sua domanda. Buongiorno, vi ringrazio. Buongiorno dottore. Buongiorno. La mia domanda è questa. Io ho una patologia all'esofago purtroppo da anni, devo assumere quasi quotidianamente dei farmaci alla mattina. Per cui insomma tutti gli agrumi mi sono stati vietati, ma comunque anch'io naturalmente li rifiuto assieme alle solanacee, se proprio non riesco più a mangiarli. E lei dice insomma come posso sopperire? E questo, e poi appunto volevo chiedere, perché a me è stata consigliata la rosa canina, volevo chiedere un po' al dottore eventualmente cosa ne pensa. Grazie. La rosa canina, rispondiamo a pezzi, prima degli integratori, la rosa canina è uno dei più dei frutti, più sembra una bacca fondamentalmente, in realtà è un frutto, cioè, ma che contiene più vitamina C in modo naturale, infatti se ne può fare una marmellata, si può mangiare da sola, è ottima, ci sono come estratti, come integratori, hanno quasi lo stesso, viene equiparata come contenuto alla vitamina C pura, perché un estratto di rosa canina è quasi tutto vitamina C alla fine, quindi utilizzabilissimo. Due cose sul reflusso e sull'acidità. Prima avevamo detto giustamente che al posto dell'arancia e dello spermuto d'arancia, che a lei possono dare fastidio per l'acidità diffusa, sì, che portano indietro, nel momento in cui lei si mangia invece lattuga, cavolo, spinaci e broccoli ad esempio, in realtà ha lo stesso apporto di vitamina C positivo senza avere questo senso di acidità che in parte un pochettino l'arancia o il limone danno all'organismo. Quindi si tratta di quello che abbiamo detto proprio all'inizio, in cui l'associazione, quando Deborah diceva se io prendo caffè e spremuta un po' mi dà fastidio, perfetto, la spremuta non deve essere bevuta a golate buttando giù tre bicchieri di fila, può essere bevuta a piccoli sorsi in framezzo ad una colazione ricca, a quel punto la modesta acidità presente nella spremuta si distribuisce e cessa un fastidio. Benissimo. Diretto sullo stomaco. Senta dottor Speciani, allora vitamina C e raffreddore in questo periodo secondo lei è l'arma ideale per combattere questo malanno di stagione, perché c'è chi veramente lo combatte quasi solo ed esclusivamente con le spremute d'arancia con grande successo, di arancia con grande successo, c'è invece addirittura chi racconta che più ne assume più ha effetti collaterali contrari, in realtà il raffreddore arriva, è possibile questo? Ma dunque, sappiamo che ha una bellissima azione antiossidante, ha documentato un'azione antivirale notevole. Devo dire che tra i migliori prodotti, io stesso consiglio a tutti i miei pazienti un'integrazione di vitamina C di 500, 1000 mg al giorno dall'inizio dell'inverno fino alla fine, ma guarda caso uno dei prodotti che affianco è proprio un estratto di broccolo, anche lui ricco di vitamina C ma anche di azioni difensive. Poi i motivi per cui uno starnuto gli viene raffreddore non sono solo la presenza di vitamina C, c'è gente che dice mi faccio la spremuta perché così non mi viene l'influenza, in realtà sta mangiando in modo perverso e quindi esatto. Come dire, non si riesce a compensare tutto con uno spremuta, ecco, come dire, per cui il tutto va ragionato. In un quadro complessivo sicuramente è utile. Allora, le bacche di goji, gli ultimi 30 secondi, dottor Speciani, perché vedo che qua, a furia di consigliarle, in molti ascoltatori le assumono molto volentieri. Guardi, ne contengono un po', sono utili, io personalmente tendo a preferire robe nostrane tipo il mirtillo, che ne contengono antiossidanti importanti e vitamina C in modo adeguato. Benissimo, dottor Speciani, grazie molte per essere stato con noi, abbiamo dichiarato guerra al raffreddore, all'influenza di stagione, nella modalità che a noi piace di più, cioè passando del tempo con lei, buona giornata e alla prossima puntata, grazie. Alla prossima, grazie. Noi ci fermiamo, adesso c'è il giornale radio, poi ritorniamo con Investire Informati, a tra poco. Cuore e denari. Ed eccoci ritrovati a Cuore e Denari, ancora buongiorno da Deborah Rosciani. Sta continuando la fase negativa sui mercati finanziari, come ben sappiamo, vi stiamo letteralmente ossessionando su questo argomento, ma d'altronde è bene seguire con attenzione le dinamiche che stiamo registrando in questi giorni, così almeno possibilmente niente ci coglie alla sprovvista. Abbiamo vissuto uno dei peggiori mesi di gennaio da molti anni a questa parte, febbraio se possibile è partito quasi peggio, comunque lanciando ancora segnali sinistri, comunque molto negativi. Vi sono molti fattori alla base di questo pessimismo finanziario che porta gli investitori ad alleggerire i portafogli, anche se molti guardano questa tendenza in una modalità diversa, in realtà con ottimismo, cercando di cogliere le opportunità di investimento che si stanno presentando in questi giorni. Allora noi oggi torniamo ad analizzare tutti questi argomenti nella nostra rubrica del giovedì. Investire informati. Ben ritrovate, buon anno, Sergio Trezzi, responsabile della distribuzione Europa e Latin America di Invesco. Ben ritrovato, grazie, buon anno. Buon anno, buongiorno a tutti. Allora, un buon anno naturalmente perché è iniziato il 2016, un buon anno finanziario, adesso cercheremo di capirlo dalle sue parole, insomma, ma già entrando Sergio Trezzi mi ha detto sì, ci dobbiamo un po' preoccupare, dobbiamo stare attenti a quello che succede, ma in realtà per noi professionisti degli investimenti ci sono talmente tante occasioni di investimento in questo momento che le stiamo anzi analizzando con grande attenzione e quindi guarda con prospettiva positiva a quello che succederà nei prossimi mesi. Ma adesso ne parleremo diffusamente. Intanto chiedo ai nostri ascoltatori di raccontarci cosa state facendo con i vostri investimenti in questo momento. Cosa vi preoccupa particolarmente, anche se sappiamo che certo sono, come dire, le banche italiane a creare una bella ed intensa fibrillazione cardiaca a noi tutti. Ma ci sono anche altri argomenti seri da analizzare. Il crollo del prezzo del petrolio, la crisi nei mercati emergenti, la frenata cinese, i tassi di interesse così bassi, ci metto anche la guerra delle valute che oggi analizza approfonditamente sul Sole 24 Ore il nostro Moria Longo. Cosa vuol dire? Che implicazioni ha sul nostro denaro? Raccontatecelo all'800 24 00 24. Sergio Trezzi ci aiuterà a capire qualcosa di più sugli scenari finanziari che si stanno delineando in questo primo problematico scorcio del 2016. Cominciamo subito a fare il giro del mondo. Dottor Trezzi, appunto, la frenata dell'economia cinese, perché lei è reduce da un bel viaggio fatto a Singapore, 4 giorni trascorsi là. Su questo punto, sul tema della frenata dell'economia cinese, la visibilità è oggettivamente bassa, anche perché le modalità con cui il governo di quel paese comunica i fatti propri è sempre un po' opaca, non tanto trasparente, non molto chiara. L'interrogativo sull'entità del rallentamento dell'economia cinese ci accompagnerà probabilmente ancora per molto. Voi siete preoccupati di questa ricerca di equilibrio da parte di quell'area economica che cerca di capire appunto quanto e come può puntare sul mercato domestico, se deve riprendere a crescere per linee esterne? Credo che sia quello che stiamo vedendo in Asia e in particolare in Cina, credo che faccia parte di una crescita normale di un paese che si sta sviluppando. La volontà di poter trasformare la propria crescita dall'esportazione alla domanda interna credo che sia solo un aspetto direi molto sano e che in futuro porterà sicuramente dei vantaggi. Sono rimasto impresso parlando con molte persone là che mi dicevano come vedevano l'Europa estremamente preoccupata per qualcosa che dal loro punto di vista è nient'altro che una crescita minore, non una situazione di recessione. Cioè loro le hanno detto: ma perché in Europa siete preoccupati per noi, perché cresciamo solo del 6,9% ai minimi da 25 anni, per noi è un riaggiustamento, un rallentamento normale, ma non niente a che fare con la recessione. Ma direi che quando uno cresce al 6,5%, direi che proprio la recessione non c'entra nulla. Non ha proprio niente di recessione. Quando vede aumentare la sua classe media, le loro spese interne, non ha niente di recessione. E solo andando in questi paesi si può vedere quanto fermento c'è anche solo nel settore immobiliare, cosa che noi in Europa ci siamo persi o abbiamo dimenticato. È anche vero che questa trasformazione richiede del tempo, è anche vero che questo richiede un cambio di cultura. Quando parliamo della non trasparenza nella loro comunicazione, direi che questo è vero fino a un certo punto, perché sono oggi, proprio alcuni giorni fa, hanno indicato il loro obiettivo di 6,5-7%, hanno indicato come vogliono fare questo, hanno indicato in particolar modo anche quali sono gli aspetti che tendono a controllare. Certo, si rendono conto che in un mondo globale la loro influenza è forte e soprattutto in una fase di crescita devono anche controllare cosa accade in Europa e cosa accade negli Stati Uniti. Non dimentichiamoci la loro ricchezza e la loro capacità di detenere titoli di Stato governativi americani. Quindi questo ha un'influenza, cioè non sono da soli. Non è un momento semplice, come dicevi, vero? Però questa è una correzione. L'importante è avere sangue freddo, allungare l'orizzonte temporale, come si è sempre detto, e forse questo è un'ulteriore indicazione o lezione per capire che il fai da te nei mercati finanziari non funziona. Allora, invece vedo già qualche ascoltatore che proprio così, con l'obiettivo di approfittare degli sconti che ci sono sul mercato in questo periodo, vanno ad acquistare singole azioni, singoli titoli, e poi ci chiedono che cosa devo fare. Io direi di non avventurarvi in maniera così spregiudicata sul mercato comprando singole azioni, a meno che non lo facciate con veramente poco denaro, con operazioni finanziarie modeste. Per il resto io mi rendo conto che poi qua usciamo sempre fuori come quelli che sponsorizzano il risparmio gestito. A noi non interessa sponsorizzare un bel niente, ognuno deve fare le scelte di investimento che sono coerenti con le necessità della famiglia. Detto questo, va da sé che, come dire, il fondo, il risparmio gestito è qualcosa di diversificato. Dottor Trezzi, lì dobbiamo sempre stare a raccontare le solite cose che, come dire, ci protegge da tutti i rischi, anche da questa volatilità che vediamo in questi giorni. Ma io credo che non è una questione di sponsorizzare, credo che è una crescita naturale, l'abbiamo visto nei mercati anglosassoni, come sia importante avere il concetto di diversificazione. Come questo poi avvenga, direi che è l'aspetto irrilevante, però lo abbiamo visto e lo sentiremo anche dopo nella storia del bail-in, cioè comprare un'obbligazione di una banca impone molto più rischio che comprare un fondo dove magari questa obbligazione era dentro con una percentuale estremamente piccola e quindi non avrebbe pesato. Questo direi che fa parte della logica naturale delle cose, cioè la diversificazione. Allora, 800 24 00 24, intanto prenotate i vostri interventi, vedo che siete già tanti. Volevo però fare un piccolo focus, Sergio Trezzi, sul prezzo del petrolio. Questa mattina è risalito ieri anche a New York, ma comunque le quotazioni sono ancora molto basse, i $30 si tengono a fatica e fanno tremare i polsi a tutti. Il mercato si chiede come e quando i paesi produttori metteranno un freno all'eccesso di offerta sul mercato. Nel frattempo però i conti delle major petrolifere subiscono le conseguenze di questo ribasso delle quotazioni. C'erano i conti per esempio di British Petroleum nei giorni scorsi, che ha chiuso in rosso il 2015, una perdita netta di $6.5 miliardi a fronte di un utile di quasi 4 che era stato registrato nel 2014. Magari questi dati ai nostri ascoltatori dicono poco, ma in realtà insomma un bilancio di questo tipo per una compagnia di queste dimensioni è molto rilevante. Allora, questo petrolio quanto vi preoccupa? Direi che ancora una volta dipende con che angolo vogliamo vedere questo. È evidente che in questa fase richiederà molte aziende di riorganizzare la loro produzione, e quindi le aziende che saranno capaci di fare questo, magari utilizzando in maniera più forte la tecnologia, nel tempo porteranno valore. La domanda sul petrolio in generale direi che inizia a essere molto complessa, anche perché non è legata solo a fattori economici, ma molti anche a fattori geopolitici. Certo. Ricordiamoci che ad oggi non vediamo l'influsso di petrolio derivante dall'Iran, e questo sarà in grado di portare aggiunta di petrolio nel mercato. E oggi i guadagni di questo paese sul petrolio sono pari a zero, quindi qualunque prezzo sarà sicuramente meglio di quello che vantaggioso per quell'economia, insomma. Assolutamente, quindi questo sarà un altro elemento di pressione sul prezzo che non si riesce ancora a valutare. Abbiamo capito come gli Stati Uniti vogliono cercare l'indipendenza energetica, abbiamo capito come anche in paesi emergenti come la Cina l'idea dell'environment, cioè dell'ambiente inizia a essere un aspetto estremamente rilevante. Ricordo solo che in una città come Singapore, che rappresenta una piccola parte dell'Asia, comprare una macchina implica una tassa di circa il 300% del valore della propria macchina. Cioè, voi comprate una macchina che ha un prezzo di 50.000 euro, il prezzo che pagate è oltre i 200.000 euro. Questo per totalmente disincentivare le macchine. E ci sono vari motivi per cui questo è fatto: perché la città è piccola, perché vogliono spingere l'infrastruttura, perché vogliono evitare lo smog. E si vede non a caso il centro di Singapore crescere in maniera molto forte. Molti paesi, lo stesso ragionamento che ha fatto il Giappone quando ha introdotto in passato l'energia nucleare. Quindi, quando la gente crede che il problema dell'inquinamento ambientale sia un qualcosa di lungo termine, non è vero. Questi paesi sono in grado di indirizzare questo in maniera molto molto forte. Che storia interessante che ci ha raccontato. Guardi che cosa vuol dire, no? Come andare direttamente nei luoghi che sono oggetto anche del vostro interesse, conoscere le abitudini, le scelte economiche e politiche in maniera così approfondita. Questo è il vantaggio di poter viaggiare e vedere concretamente come i paesi, la cultura e le economie si muovono. Pensare di poter comprare anche nel mercato finanziario titoli schiacciati o chiusi in un ufficio pensando di imparare solo leggendo, non è possibile. Il mercato è globale, ma la cultura è locale. Questo vale anche per noi nel nostro piccolo. Pensare di investire e di gestire il nostro risparmio andando solamente a fare una chiacchierata di una mezz'ora con il direttore di banca che ci dice guarda non ti preoccupare che ti vendo questa mia obbligazione e ti proteggo da tutto. Noi in realtà dobbiamo fare questo investimento magari impegnandoci un po' a leggere i giornali, a guardare un po' che cosa succede in giro per il mondo, perché poi magari possiamo appunto con l'indicazione della diversificazione come dire fare delle scelte un po' più oculate. Intanto stavo guardando il petrolio, dottor Trezzi, perché poi volevo arrivare ad analizzare anche la situazione delicata di un altro paese, molto lontano da noi, ma siccome si va profilando un crack, non vorrei che poi anche questo ce lo trovassimo nel giro di poco, nel nostro risparmio, nel nostro portafoglio. Mi sto riferendo alla crisi fortissima che sta travolgendo il Venezuela. Però guardavo che il petrolio stamattina risale, il Brent a Londra è a $35, il greggio americano è a 32,5. È merito o colpa del dollaro che è sceso così tanto sull'euro nelle ultime ore, oppure come dire, l'aggiustamento valutario e il prezzo del petrolio hanno un legame relativo? No, direi che sicuramente l'aspetto della valuta e quindi del dollaro ha impattato questo valore del prezzo del petrolio. In effetti questo mi dà, direi, il punto per provare a capire o a provare a spiegare l'importanza di come bisogna diversificare i mercati emergenti. Parlavi di Venezuela. Sì. Molto spesso quando si guardano i mercati emergenti si fa di un tutt'uno questo argomento. La realtà è che quando si guarda i mercati emergenti si vede una grande dicotomia tra i mercati emergenti legati alla produzione manifatturiera, tipo la Cina piuttosto che la Corea, rispetto a quei paesi emergenti che invece sono legati alle materie prime e quindi alle commodities. E l'esempio può essere esattamente Venezuela piuttosto che la Adesso Russia. Adesso spieghiamo cosa sta succedendo là, sì. Ad esempio la Russia oppure il Brasile stesso, e in effetti c'è un dato molto bello che non è bello per il numero ma è bello per l'indicazione che dà, dove si vede l'andamento della valuta russa con l'andamento del prezzo del petrolio e si vede come questi due sono estremamente correlati. Mm-hmm. E questo perché la crescita del paese infatti Russia, il rublo è andato a picco assolutamente con la borsa. Dall'altra parte si vede come il prezzo della valuta brasiliana sia estremamente legato all'andamento del prezzo delle commodities. Quindi vuol dire che questi paesi sono cresciuti e stanno crescendo attraverso un fattore certo produttivo ma legato a una domanda esterna. Nel momento in cui viene a mancare la domanda questi paesi soffrono, Venezuela. Non è questo il caso della Cina. Voi in Cina avete che la produzione manifatturiera è molto forte, importano lavoro, importano manodopera e in effetti si vede che parliamo di crescita di 6,5. Infatti, allora cosa succede in Venezuela? Perché voglio raccontare questa storia, a parte che è interessante, avvincente e comunque insomma magari raccontarla un po' ci fa culturalmente parlando crescere, è che io tante volte, avendo riparlato ieri di una soluzione arrivata dopo 14 anni per 50.000 risparmiatori italiani che avevano i bond argentini, allora temo sempre che quando si verificano queste storie sui mercati finanziari internazionali c'è sempre qualcuno che comunque magari qualche obbligazione stravagante in portafoglio ce l'ha. Allora non vorrei che vi svegliaste fra qualche giorno e magari avete pure l'obbligazione venezuelana nel vostro portafoglio pensando appunto di aver fatto l'affare del secolo, invece questo è quello che sta succedendo. Entro la fine dell'anno il Venezuela potrebbe proprio dichiarare il default sulle proprie obbligazioni. C'è uno stato di emergenza economica che è stato dichiarato per 60 giorni dal presidente venezuelano Maduro. Questa dichiarazione è stata fatta il 15 gennaio e nello stesso giorno, a metà dello scorso mese, la Banca Centrale del Venezuela ha pubblicato alcune statistiche economiche indicando un'inflazione così banalmente al 140%, ma pare che il Fondo Monetario Internazionale prevede l'inflazione per quest'area del 720% quest'anno. Dottor Trezzi, io non lo so, queste cifre sono inimmaginabili. La contrazione del PIL è enorme, 8% di riduzione della crescita per quest'anno e poi un declino cumulato nel prossimo, nel biennio considerato fino al 2016, del 17%. E tutto questo proprio perché l'economia venezuelana dipende quasi esclusivamente dal petrolio. Allora, questo è un paese, per esempio, da cui Invesco scappa o investe? Come ci si approccia ad un'area di questo tipo? No, direi che quando guardiamo nei nostri fondi non siamo presenti in quest'area, e questo perché, come dicevamo prima, ci sono una serie di indicatori che dicono che non è interessante, o meglio, il prezzo, il rischio e il rendimento non sono interessanti in questo momento, e lo vediamo perché sono legati alle loro commodities, esiste una classe politica, non esiste esattamente una democrazia, c'è la ma l'abbiamo visto anche in Argentina quando hanno deciso oggettivamente di statalizzare o di rendere pubblica una serie di aziende da un giorno all'altro, e abbiamo visto anche l'Eni che ha dovuto dare una parte delle proprie aziende. Direi che ancora una volta, per un risparmiatore finale, comprare singoli titoli in questi paesi così lontani, così complessi, non ha senso. E non dimentichiamoci una cosa: negli ultimi anni abbiamo visto che il tasso di fallimento delle obbligazioni high yield, cioè quindi di quelle che hanno tipicamente un rendimento e un rischio più elevato rispetto ai titoli di Stato, è stato vicino allo zero. Cioè si compravano titoli più rischiosi pensando che non lo fossero, perché nessuno di questi emittenti era fallito, tanto più che il tasso era vicino allo zero, mentre nella media storica questo tasso è intorno a un 5-6%. Quindi noi ci aspettiamo di vedere anche aziende in paesi, diciamo, sviluppati, che inizieranno ad avere questa problematica tecnicamente di default, cioè di fallimento. E questo, se lo vediamo dal lato di possedere questi titoli, chiaramente è negativo. Se lo guardiamo dall'altro lato, vorrà dire che altri titoli invece, che sono più solidi, offriranno immediatamente un ottimo rendimento. Ed è per questo che molte persone parlano di opportunità nel mercato high yield, nel mercato statunitense della yield, perché c'è questa fase di riorganizzazione. Ma come vedete è complesso, perché poi dopo c'è anche l'impatto di come la valuta dollaro verso euro, perché uno può pensare di comprare un rendimento interessante negli Stati Uniti su un'obbligazione che sia governativa a yield o anche mezzanine o subordinata, però poi se nell'importare il ritorno lo devi cambiare in euro, abbiamo visto oggi questo cambio. Molto complesso. Calma e sangue freddo quindi con le aree emergenti, diversificate quanto meglio potete il vostro portafoglio. Giovanni da Modena invece si lascia attrarre dai futures, dai derivati sul petrolio. Giovanni, adesso le devo dare una bacchettata sulle dita, speriamo di no, buongiorno. Non faccio la maestrina, per carità. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Niente, io premetto che sono completamente a digiuno della materia, quindi sono state voci che sono giunte e quindi pensavo, prima di tutto volevo sapere se si riesce, volevo capire che cosa sono e se vale la pena eventualmente, tra virgolette, rischiare forse. Sì, ma ci spieghi che voci ha sentito, Giovanni? Sui future petroliferi, ecco. Allora Giovanni, lei tra l'altro nell'anticipazione della domanda vedo che addirittura ci racconta che è una bella sommetta da investire, io direi di non farla andare sulle montagne russe come le è stato suggerito da queste voci. Allora Sergio Trezzi, il future sul petrolio intanto direi che proprio il derivato è quanto di più lontano da noi, assolutamente ingestibile, ingovernabile per quello che riguarda il risparmiatore comune mortale. Che suggerimenti possiamo dare? No, assolutamente, e peraltro provare a fare quello che viene chiamato tecnicamente... Cioè è una scommessa sul prezzo del petrolio, Giovanni, ma lei secondo si sentirebbe di scommettere su quanto può quotare il petrolio fra una settimana, fra un mese? Vede quello che sta succedendo sui mercati? Cioè, certamente, però non so, è una mia ipotesi, una mia sensazione, probabilmente forse abbiamo toccato il fondo, penso che peggio di così. Diciamo che anche non c'è mai fine al peggio, e direi che le dinamiche sono molto ampie. Se si vuole provare a partecipare a questo mercato, ci sono modi forse un po' più, direi, efficienti. Basta pensare a un fondo comune di investimento che investe in energy, dove in questo modo si prende una partecipazione al mercato della produzione petrolifera. Esistono gli ETF, esatto, che danno la possibilità. Sono gli ETC in questo caso, perché sono le fondi appunto passivi che replicano l'andamento del prezzo delle materie prime. Assolutamente, che danno sostanzialmente non solo liquidità, ma una grande diversificazione. Questo può essere un modo di diciamo toccare o partecipare a questo settore, che non è il mio consiglio, ma se qualcuno vuole farlo, meglio scegliere, certo, una strada più diversificata. E poi Giovanni, no, mi stupisce un po' quello che diceva, sono completamente a digiuno di questi argomenti, ma ho la sensazione che sia stato toccato il fondo. Giovanni, naturalmente se si frequenta l'ambiente finanziario con professionalità, magari qualche volta un po' l'intuito e le sensazioni possono aiutare. Se si è completamente a digiuno di una determinata materia, direi che invece le nostre sensazioni forse le dobbiamo lasciare un po' da parte, per cui mi raccomando, cautela. E io le posso suggerire spassionatamente, visto che ci aveva dato un'indicazione di una cifra precisa su cui voleva utilizzare per puntare su questo mercato, la riduca. Se proprio vuole provarci, magari utilizzi una cifra un po' più contenuta. 800 24 00 24, il numero verde con il quale potete continuare a presentarci i vostri quesiti sui temi di questa mattina. È già tempo di raccontare quello che succede stamattina in borsa, ma adesso alla ripresa della nostra trasmissione sentiremo Francesco da Vicenza. Volevo però commentare con Sergio Trezzi il tema delle attività molto intense delle politiche monetarie, che è l'oggetto anche dell'analisi approfondita di questa mattina di Moria Long sul Sole 24 Ore, perché qua le banche centrali davvero non sanno più che cosa fare, continuano a svalutare da una parte e dall'altra dal globo, e Moria Longo dice a furia di andare avanti così tutte queste iniziative non avranno più alcun senso, le banche centrali perderanno di credibilità, ma soprattutto i loro interventi sono a somma zero, perché continuano a svalutare ma con effetti praticamente nulli sull'economia reale, o comunque molto ridotti, non visibili. Mario Draghi non ce la fa proprio a combattere questa deflazione. Ma l'abbiamo visto in Giappone, dove c'è stata questa politica espansiva per molti molti anni. Gli Stati Uniti sono stati in grado di approfittare della politica monetaria espansiva, ma oggi si stanno chiedendo se funzionerà ancora. In effetti molti si chiedono se l'aumento del tasso fatto a dicembre a questo punto sia stato corretto. Quello, no? Della Federal Reserve, stanno ritrattando, esatto, molti esponenti della Federal Reserve, soprattutto il presidente dell'area di New York. Iniziano nuovamente a farsi la domanda se questo è stato giusto o no, il che non vuol dire che ci sarà un cambiamento direi strategico della direzione, perché il motore sottostante è che l'economia non cambia in un trimestre. Però è vero che se ci si aspettavano magari 3 o 4 aumenti, magari saranno solo 2. Dall'altra parte ci vediamo che l'Europa invece non è ancora riuscita ad approfittare di questo, e come avevamo detto forse in un incontro qui, direi che la vera problematica sarà se nei prossimi 3 anni o 2 anni i paesi non faranno le riforme, perché lo stiamo vedendo adesso. Se non viene cambiato il motore economico dei paesi, la politica monetaria a un certo punto non sarà in grado di sostenere questo, certo, perché l'abbiamo visto in Giappone. Allora, Giappone che ha sperimentato peraltro anche i tassi sotto zero per i depositi delle banche commerciali appunto presso la banca centrale stessa, iniziativa che già Mario Draghi aveva preso in precedenza lo scorso anno. E allora da questo ripartiamo dopo l'andamento di borsa odierna, che vi anticipo già, fatemi un po' vedere, insomma qua veramente continuano ad andare avanti e dietro, non sanno bene che direzione prendere stamattina i mercati. A tra poco. Cuore e denari. La verità dei fatti impone di dire che non c'è rischio sistemico per le banche italiane, che le banche italiane sono molto più solide di banche di altri paesi, che non cambierei il sistema bancario italiano con quello tedesco nemmeno sotto pagamento. Lo abbiamo sentito tante volte questo commento di Matteo Renzi fatto nei confronti di chi gli chiedeva se erano ritornate le preoccupazioni per un rischio sistemico delle banche italiane. Allora, devo dire che effettivamente la comunità degli investitori in questi giorni ci ha bersagliato e non poco. Le preoccupazioni sulla tenuta del sistema bancario italiano ci sono per tutta una serie di ragioni, ma la regina delle preoccupazioni è quella legata alla gestione delle sofferenze bancarie. Sapete che c'è stato questo accordo raggiunto in sede europea fra il ministro Padoan e la commissaria alla concorrenza Vestager. Non è stata istituita la bad bank nazionale come ci si aspettava, ma è stato semplicemente concordato un meccanismo che ogni banca adotterà per gestire a casa propria le proprie sofferenze, che verranno cartolarizzate e messe sul mercato. Le più belle avranno una garanzia di Stato. Dottor Trezzi, l'ho sintetizzata così. Voi d'Invesco su questo meccanismo di gestione delle sofferenze bancarie come la pensate? Secondo lei c'è stato un po' troppo accanimento sulle azioni bancarie italiane in questi giorni? Direi di sì, direi che condivido l'idea che il sistema bancario italiano sia solido. Poi è normale che all'interno di un sistema caratterizzato da molte banche qualcuna non sia stata efficiente, ma direi che questo è più legato al cambio che si è fatto nel sistema bancario quando si è deciso di passare da aziende pubbliche ad aziende private, quindi peraltro con anche un elemento minore di trasmissione di politica monetaria. Ricordiamoci che in passato la banca centrale decideva qualcosa, esatto, le banche facevano poi la trasmissione monetaria. Nel momento in cui questo è andato via e c'è stata una gestione più come un'azienda privata, direi che può capitare, non dovrebbe, ma è capitato. Però sono quattro banche su un sistema, e quando guardiamo negli Stati Uniti questo è accaduto. Quando parliamo di questa ristrutturazione del debito tramite la bad bank, in America è già stato fatto molto più veloce, l'abbiamo visto anche in Germania in alcune aree. Quindi direi che quello che per noi conta non è solo la forma di come questo viene fatto, ma la velocità, la trasparenza e che poi venga realmente eseguito. Perché non c'è una soluzione perfetta che possa essere usata in ogni paese. Però ci può essere il processo in cui questo viene utilizzato. Cioè nel momento in cui viene deciso come fare, si deve fare con trasparenza. Siamo convinti che ci sarà un'altra, ma lo vediamo, cioè un'altra riorganizzazione del sistema bancario italiano quando guardiamo le popolari. Ma ieri il mercato era nervoso solo perché la Popolare di Milano e il Banco Popolare ancora non dicono quando e come si metteranno insieme sostanzialmente, per cui tutto un po' di nervosismo su questo, perché il mercato, come dice lei, vuole delle certezze, vuole delle date, degli step precisi. Nel momento in cui questi mancano, perché poi sono due begli attori del credito italiano, dovranno mettersi d'accordo nei dettagli su questa aggregazione, e ieri tutto giù. Chiusa parentesi, non voglio farle commentare il caso specifico, però insomma, per convalidare un po' quello che diceva lei prima sulla ricerca delle certezze da parte del mercato. E poi il sistema bancario italiano aveva performato molto bene anche prima, quindi direi che è una normale correzione. Ancora una volta, se si fosse diversificato invece di aver comprato il bond della singola banca, non si avrebbe avuto questo problema. Allora, esatto, però purtroppo commentiamo sempre le storie quando, come si dice, i buoi sono scappati dal recinto, e quindi adesso dobbiamo gestire le conseguenze di quella situazione. Però più si cresce, più la cultura finanziaria deve diventare parte di noi. Che i nostri figli non facciano gli stessi errori che abbiamo fatto noi. Allora ci sono Francesco da Vicenza e Roberto da Bergamo. Volevo introdurre anche un po' un piccolo approfondimento sul tema americano, perché a prescindere dalle decisioni della Banca Centrale Americana, aumento o no i tassi di interesse, quante volte lo farò quest'anno, gli appuntamenti con la Federal Reserve seguiranno parallelamente anche le varie appuntamenti dei candidati alle presidenziali, e in genere si dice che l'anno di elezioni matura sul mercato un determinato andamento, così come leggevo questa mattina un report di una vostra società concorrente che dice non appena viene eletto appunto il candidato prescelto dall'elettorato americano, il primo anno di governo presidenziale è sempre caratterizzato da una situazione di recessione americana. Anche le vostre statistiche lo dicono. Io non me lo ricordo. No, direi che non abbiamo una visione così statica. È come quando la gente crede che i mercati finanziari vanno bene a gennaio, febbraio e marzo perché siamo inizio anno, e poi non vanno bene in agosto. E poi c'è vendono tutto a maggio per andare in vacanza. Mentre negli ultimi tre anni è stato esattamente l'opposto. Forse anche un po' di più. Credo che l'America abbia, e poi dipende chi vincerà, perché se fosse un cambio politico, questo avrebbe un impatto molto forte fin dall'inizio, e non a caso molto spesso si parla dei primi 100 giorni. Quindi anzi, forse sono proprio i primi 100 giorni dall'arrivo del nuovo presidente che possono dare un'indicazione forte di quella che saranno i piani. È vero che il 2016 potrebbe essere un periodo di transizione, perché lo vediamo in questo momento, ma l'economia non cambia in una settimana e i fondamentali sotto sono comunque buoni. Noi siamo convinti che ci sia una crescita lenta, graduale, quello che viene detto un nuovo normale, la direzione è quella, non è lineare, ci sono delle curve. Se sappiamo cogliere queste curve e l'orizzonte temporale è giusto, avremo dei buoni risultati. Tra l'altro, a proposito di economia americana, domani abbiamo anche l'importante dato sulla disoccupazione di gennaio, anche quello è un test che viene osservato sempre con grande attenzione. Ci sono state anche delle notizie divertenti che sono state diffuse nei giorni scorsi riguardanti le azioni e le società quotate a Wall Street. Prima era Apple, adesso invece è Google, la società con il più grande valore di mercato a Wall Street e quindi al mondo, 533,20 miliardi di dollari di capitalizzazione contro i 532 miliardi di Apple, quindi praticamente se la battono in realtà per pochissimo. In questa classifica al terzo posto c'è Microsoft e Facebook, al quarto che oggi ha superato il colosso petrolifero Exxon. E quindi insomma così raccontiamo anche queste curiosità ogni tanto. Le vuole commentare Trezzi? Ma io mi ricordo anche quando Tiscali era in Italia quotata con una capitalizzazione. Davide contro Golia, sì, che lo era so. Quotata. Quindi direi che questo non è nient'altro che il riflesso della tecnologia nel mercato e nella nostra vita quotidiana. Certo che poi capire se la capitalizzazione di un'azienda equivale alla capacità di produrre rendimento, di produrre profitti, di essere ben gestita e soprattutto di affrontare le nuove sfide è molto diverso. Allora, Francesco da Vicenza, torniamo alla gestione, alle modalità con cui gestiamo i nostri sudatissimi risparmi. Francesco da Vicenza, benvenuto. Sì, grazie. Buongiorno a lei, il suo ospite. Niente, io volevo portare la mia esperienza di piccolo risparmiatore e quello che avete approfondito questa mattina mi dà conforto, insomma, perché io mi sono affidato a un tipo di risparmio gestito, quindi diciamo risparmi fatti con dei piani di accumulo nel tempo, sperando di cogliere i frutti un domani, nel certo. senso attualmente probabilmente sto comprando basso. Però compra più quote del fondo. Assolutamente sì. Sì. Quindi lei ha capito perfettamente come funziona, qual è lo spirito di uno strumento, diciamo, di questo tipo, del PAC. Sì. Sì, diciamo che mi sono affidato a un consulente il quale mi ha dato delle indicazioni, certo. spero preziose. E quindi, sì, quindi nel breve, nel lungo periodo, esatto. ho messo giù dei soldi e vediamo cosa succederà. Grazie Francesco. Allora, tra l'altro, adesso quando parliamo di risparmio gestito, come dire, quello che, a cui dobbiamo guardare è proprio il vantaggio più importante di un investimento di questo tipo, che è quello della diversificazione. Poi da qui a dire, non è che questi strumenti poi rendono, voglio dire, delle cifre mirabolanti, perché nel lungo periodo abbiamo visto quello che è successo dal 2008 ad oggi, ci sono state delle crisi profonde che hanno ridimensionato molto anche i rendimenti generati anche dai fondi di investimento più diversificati possibile, dottor Trezzi. Detto questo, però, quantomeno non abbiamo il crepacuore da azioni individuali che perdono nel giro di due mesi il 50% e anche più, no? Ecco. Assolutamente, direi che il nostro ascoltatore ha capito in pieno il motivo del risparmio gestito, che vuol dire accumulare denaro per poterlo usare dopo un determinato periodo di tempo, e perché rappresenta sostanzialmente un modo previdenziale, e comprando attraverso dei piani di accumulo si fa esattamente questo, cioè si entra in momenti diversi, in alcune volte quando il mercato è alto, in alcune volte quando il mercato è basso, però dopo vari anni questo sicuramente porta dei vantaggi, e due, si esce dalla discussione della volatilità del breve periodo. Allora, intanto volevo rispondere ad una mail di un ascoltatore che torna, lo faccio solo per così segnalare all'ascoltatore che abbiamo fatto una puntata molto dettagliata ed approfondita ieri su questo argomento, cioè l'accordo sui Tango Bond per 50.000 risparmiatori italiani che hanno seguito l'iniziativa della Task Force italiana, che ha raggiunto questo weekend un accordo con il governo di Buenos Aires che rimborsa questi obbligazionisti per 1.350 milioni di dollari. Questo ascoltatore ci racconta che aveva già probabilmente aderito ai due alle due ristrutturazioni fatte dal governo argentino nel 2005-2010, e per una di queste ristrutturazioni da due anni non vengono più pagate le cedole semestrali che erano previste dall'accordo di ristrutturazione. È possibile prevedere l'esito di questi titoli, Domenico? Le devo dire che non rientrano nell'accordo siglato nel weekend, per cui al momento non si sa. Poi, se il presidente Macri intende anche ripristinare il pagamento di queste cedole in virtù di tutta questa buona volontà che ha mostrato in questo periodo nei confronti del governo italiano, non lo sappiamo, e forse potrebbe anche farlo. Detto questo, però, non rientrano nell'accordo del weekend. Adesso le segnaleremo anche la puntata che abbiamo fatto ieri con Nicola Stock, presidente della Task Force Argentina. Sentirei, Carmelo, Roberto da Bergamo, poi il traffico, e ci pensiamo un po' che cosa rispondergli. Roberto, benvenuto. Grazie, buongiorno Deborah, buongiorno dottor Tretti. Una considerazione più che una domanda. Io sono un fan del risparmio gestito, effettivamente quello che posso lo faccio, e credo di farlo, credo, spero, decorosamente e con due operatori del mercato seri ed importanti, dei quali immagino non si possa fare nomi. Vabbè, però mi domando, perché non ogni tanto anche il risparmio gestito? Io, per esempio, a Natale piuttosto che a novembre volevo uscire, mi metto tutto in liquidità e poi ci penserò più avanti, immaginando questo. Poi la colpa è mia, non loro, perché io ho chiesto e mi sono fatto consigliare, mi ha detto no, rimani, tanto poi vedrai che i flussi, se tu entri ed esci, perdi 60 giorni migliori di borsa. Intanto ho preso i 120 peggiori. Ecco, questa è la mia domanda. Non è che non ogni tanto anche il risparmio gestito teme di dover smantellare quel castello. Guardi Roberto, castello. Le farei vedere la faccia di Sergio Trezzi, che mi sta facendo capire, non vedevo l'ora che qualcuno mi facesse questa domanda. Ottimo, è arrivata, ci prendiamo 30 secondi di pausa per il traffico e poi rispondiamo in maniera articolata ed approfondita a Roberto come merita. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Cuore e denari. Non pensavate mica che questa mattina il domandone non ci fosse? Eh no, adesso invece cerchiamo di capire se siete stati attenti nel corso della trasmissione. Veramente oggi abbiamo affrontato tanti argomenti interessanti, ma per il domandone abbiamo scelto naturalmente un tema facilissimo. Allora, prima parlavamo della società che ha la più alta capitalizzazione di borsa negli Stati Uniti, a Wall Street. Allora, storicamente da anni era Apple, la società appunto fondata da Steve Jobs. E invece nei giorni scorsi Apple è stata scavalcata da un'altra società che conosciamo tutti, perché tutti almeno una volta al giorno andiamo su internet e digitiamo questo nome. Qual è? 800 24 0024, numero verde a vostra disposizione se volete rispondere al domandone e guadagnarvi anche un bel libro che vi potremo regalare naturalmente aprendo la libreria di Cuore Denari. Allora, prima di presentarvi il prossimo ospite che ci ha raggiunto e già pronto telefonicamente per noi, Sergio Trezzi, andiamo alla bellissima questione che ha sottoposto Roberto da Bergamo, che conosce molto bene le dinamiche del risparmio gestito, ci crede, gestisce il suo risparmio con questa modalità, e però dice qualche volta conversare anche con gli operatori che mi aiutano a fare le mie operazioni di mercato è un po' difficile. Io a dicembre i chiari di luna li avevo già visti, volevo uscire, stare liquido per un po' e poi magari rientrare raccogliendo proprio come fanno i professionisti le opportunità di mercato che ci sono in questi giorni. Mi hanno convinto a non farlo. Allora, che questioni solleva Roberto, secondo lei? No, capisco molto bene. Direi che qui bisogna capire nella catena del valore la differenza tra chi fa la gestione e chi fa il distributore. Perché a giudicare dai cali di questi giorni molti fondi sono usciti e quindi i gestori professionali in liquidità ci si sono messi. Assolutamente. Perché non farlo fare anche ad un piccolo risparmiatore? Perché a volte, dal mio punto di vista, questo può sembrare un market timing, ma se si compra il fondo giusto della società giusta, questo viene fatto. E io ho in mente alcuni fondi obbligazionari di Invesco dove la componente monetaria è stata aumentata fino oltre il 30%, questo a partire da ottobre, magari in controtendenza in una prima fase, ma invece poi corretta, fatta in maniera corretta. Forse poteva essere fatto un mese dopo, un mese prima, non, questo non lo posso dire. Sono, però questa azione è stata fatta, mm-hmm. e così come altre società di gestione sono certo. Quindi direi che più che essere il cliente finale a decidere quando entrare e quando uscire, l'ideale è che il cliente finale compri quei prodotti di risparmio gestito, gestiti attivamente, in cui il gestore fa esattamente questo. Mm. E ricordo come c'è appena stata un'analisi a livello europeo dell'associazione della categoria che ha fatto sì che sia dimostrato come i veri gestori attivi, cioè quelli che fanno cambiamenti rispetto al benchmark, sono poi quelli che hanno dato anche più rendimento. Mm-hmm. Ed è per questo che si pagano. Allora, e quindi insomma, che cosa possiamo dire in definitiva a nostro Roberto? Vabbè, non l'ha fatto, è lì, diciamo che in questo periodo se ha una buona diversificazione di mercato probabilmente starà comprando più quote dei suoi fondi, un po' la risposta che vale per l'ascoltatore che abbiamo avuto prima, no? Assolutamente. Roberto, abbia un po' di pazienza, prima o poi il mercato si risolleverà. Trezzi, non mi conforta? No, sì, credo, sì, sicuro, io sono estremamente convinto che questa è una correzione forte, mm-hmm. difficile, ma offre delle grandi opportunità. Non ha senso avere aziende che sono nel lato delle materie prime o anche nella produzione a prezzi così bassi. Non ha senso, cioè noi crediamo che, come dicevo prima, quando si guarda il mercato nella sua complessità globale o anche regionale, quello che stiamo vedendo è troppo forte, è una correzione molto forte. Mm-hmm. Era meglio non prenderla, sono d'accordo. E lo so, d'altronde, però d'altronde ogni tanto arrivano queste sberle, qualche volta sono un po' dolorose. Allora, intanto, altro tema che abbiamo affrontato tante volte, ma sul quale probabilmente sarà necessario ritornare, c'è un altro termine con il quale, un po' come è successo negli anni passati, prima con i subprime e poi con lo spread e il quantitative easing, ogni tanto torna una parola, come dire, con la quale dobbiamo prendere confidenza, che mai prima avevamo sentito. Adesso quella che sarà certamente più gettonata da qui a Natale sarà bail-in. Quanto ne sanno gli italiani del bail-in? Sabato Plus 24, che è il settimanale del risparmio del Sole 24 Ore, pubblica un'inchiesta e i risultati di un sondaggio proprio su questo argomento. Noi siamo in grado di anticiparvi un po', dobbiamo svelare tutto il mistero, i contenuti appunto dei risultati di questo sondaggio che è stato condotto per Plus 24 da IPR Marketing, e noi abbiamo il piacere di avere con noi Antonio Noto, che è il presidente di questa società. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, una parola difficile, ma ormai la leggiamo tutti i giorni sui giornali, per chi ancora fosse un irriducibile, dottor Noto. Insomma, che cosa avete scoperto? Intanto, che tipo di campione avete sentito? Ma diciamo è un campione di italiani, perché ormai tutti gli italiani hanno un conto corrente in banca, tutti gli italiani, molti italiani investono anche se in piccole azioni, quindi diciamo ecco, molti italiani non solo sono diciamo risparmiatori, ma in pratica mettono in atto anche azioni per gestire il proprio risparmio. Beh, certo, la parola bail-in probabilmente, ecco, lo dico contro i miei interessi, quello che spesso si dice, non ci voleva un sondaggio per comprendere che non è una parola proprio molto popolare, no? Cioè, nel senso non è molto conosciuta. D'altronde bisogna fare anche un po' un mea culpa di quello che sono un po' i processi di comunicazione del mondo finanziario, no? Forse in Italia c'è bisogno effettivamente di dare di erogare educazione finanziaria. Ma l'economia deve raccontarsi un po' meglio, deve parlare di sé in maniera più comprensibile. Guardi, sfondano aperto aperto. Con parole esattamente capibile, nel senso che poi il concetto di bail-in è un concetto anche banale, però comunicato con una parola diciamo ecco particolare, è chiaro che genera incomprensione, ma genera soprattutto distanza molto spesso, nel senso che si fa fatica proprio a entrare nel merito, perché si pensa che sia un qualcosa talmente tecnico, qualcosa talmente di strano che il consumatore non possa capire. È il nuovo meccanismo con cui potenzialmente, teoricamente, in via del tutto teorica, dovranno essere gestite le risoluzioni bancarie, dottor Noto. Questo lo sappiamo, lo ridiciamo in maniera semplice, ma ci sono degli aspetti specifici che gli italiani non comprendono su questo meccanismo di risoluzione, soprattutto ha scoperto anche che si stanno comportando di conseguenza, sono preoccupati? Ma guardi, il concetto è questo, è chiaro che gli italiani sono disinformati, Poi al di là di chi sono di chi è la responsabilità di questa disinformazione, il concetto finale è che gli italiani sono disinformati. È chiaro che la disinformazione genera comportamenti negativi, può generare panico, può generare attenzione o può generare comportamenti sbagliati sostanzialmente. Ecco, quindi in questo momento ci ritroviamo in questo tipo di scenario, cioè disinformazione rispetto a quello che sta accadendo, preoccupazione. Diciamo, ecco, oggi come oggi siamo nella fase di preoccupazione. Poi benissimo. Ci sono anche italiani che hanno messo in atto comportamenti che però, come dire, sono marginali, non sono tantissimi. E ce li racconta Plus. Abbiano... Devo salutarla purtroppo perché mi stanno tirando via la trasmissione. Grazie, grazie moltissime ad Antonio Noto per il lavorone che ha fatto per Plus 24. Su questi comportamenti c'è l'indagine su Plus sabato. Elisa da Milano, quale società è più capitalizzata di Apple oggi? È la regina di Wall Street. Google. Brava, abbiamo il libro. Invesco, Sergio Trezzi, 10 secondi sul bail-in e sul vostro sito c'è un bel lavoro che avete fatto, se volete andare a vedere lo dico agli ascoltatori. Sono un fautore della comunicazione, credo che col bail-in proviamo a spiegare come i fondi comuni di investimento rappresentino una soluzione molto efficiente e sicura. Allora, noi adesso andremo a rubare i contenuti di quello che avete scritto, li facciamo veicolare attraverso i nostri social. Intanto grazie a Sergio Trezzi per averci raccontato tante cose interessanti questa mattina. Grazie. Presto. A te. Presto. A domani, buona giornata.